Euroreportage. Ancora Angela sulla via dell'Europa, di Sergio Nava. L'Europa dopo la Germania, l'Europa dopo il trionfo di Angela Merkel. Un intero continente ha atteso col fiato sospeso le ultime elezioni tedesche per scoprire come alla fine potrebbe cambiare in realtà ben poco rispetto agli ultimi 4 anni di protagonismo di Angie sulla scena europea. Non è un mistero che Frau Merkel si sia imposta con la crisi come la donna forte d'Europa, dettando prima la linea dell'austerità, poi dell'austerità accompagnata dallo sforzo verso le riforme strutturali, infine sotto la pressione di paesi mediterranei sempre più in difficoltà, di un'austerità temperata da investimenti per la crescita, condizionati però dall'aver fatto i compiti a casa. Su questo la Merkel non intende retrocedere. La nostra resta una politica orientata all'integrazione europea, rende chiaro Angela il giorno dopo la vittoria nella prima conferenza stampa, ma aggiunge: non vedo alcuna necessità di cambiamento nella linea fin qui seguita, e racconta ancora una volta la storia di quel paese che 10 anni fa era il malato d'Europa, quel paese che ebbe il coraggio di fare le riforme necessarie e oggi ne raccoglie i frutti. Quel paese era proprio la Germania. Il messaggio anche all'Italia è chiaro: chi fa la cicala poi non pianga, se vuole una mano si metta a fare i compiti, poi se ne parla. E per capirne di più, per meglio comprendere quali saranno le prossime mosse di Angela Merkel nell'Unione Europea, siamo risaliti di poche centinaia di metri lungo la Klingelhofstrasse, l'ampio viale dove la CDU ha la sua sede centrale. Al numero 23 c'è la Fondazione Konrad Adenauer, collegata proprio al Partito Cristiano Democratico. Hans-Gert Pöttering è il presidente. La sua è una posizione importante all'interno del partito, considerata la sua carica di eurodeputato nonché di ex presidente del Parlamento Europeo. Angela Merkel wird als Bundeskanzlerin. Angela Merkel proseguirà la sua politica europea. Noi ci consideriamo un partito pro-Europa. Abbiamo cominciato con Konrad Adenauer e proseguito con Helmut Kohl. Non ci possono essere dubbi. Vogliamo una Germania europea, non un'Europa tedesca, afferma Pöttering, che aggiunge: non penso che sia contraddittorio promuovere da un lato la crescita e dall'altro risanare i deficit pubblici. Noi europei, anche tedeschi, abbiamo fatto troppi debiti e i trattati di Maastricht ci consentono uno sforamento solo del 3%. Tutti i paesi, compresi la Germania, hanno in passato sforato questi parametri. Noi dobbiamo prendere sul serio i limiti europei, non per una questione di principio, ma perché ci troviamo in una situazione di competizione globale e se ci indebitiamo sempre di più, si alzano di conseguenza anche i tassi di interesse, portando i paesi vicino all'insolvenza. L'esempio più chiaro è la Grecia. Allo stesso tempo, però, serve una politica della crescita che dia impulsi, che permetta alle imprese di investire. Per questo è importante che le banche, che hanno ricevuto molto denaro dalla BCE, facciano confluire questo stesso denaro nel sistema produttivo a tassi accessibili. A queste condizioni si potranno creare nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani. Beh, per riassumere, crescita e riduzione del deficit sono due facce della stessa medaglia, non sono per nulla in contrasto, conclude Pöttering. Und Abbau von Defiziten gehören zusammen und sind kein Widerspruch. Ma quale tipo di integrazione ha in mente Angela Merkel, incalziamo, mettendo in luce lo zigzag di Berlino su dossier chiave, quali l'unione bancaria? Wir wollen das gemeinschaftliche Europa. Noi vogliamo un'Europa comune. Abbiamo già detto di sì all'Europarlamento, alla vigilanza bancaria, risponde Pöttering. È chiaro che sui dettagli ci possono essere differenze di vedute, riconosce poi, ricordando la richiesta di Wolfgang Schäuble di una revisione dei trattati prima di completare l'unione bancaria. Ma Pöttering rassicura: le decisioni si prendono in cooperazione con Europarlamento e Consiglio europeo. Dafür gibt es ja auch die Entscheidungsgremien Europäisches Parlament einerseits und Ministerrat andererseits. Ad Hans-Gert Pöttering chiediamo quale messaggio voglia lanciare ai cittadini dei paesi mediterranei che criticano molto duramente Angela Merkel per le politiche di austerità. Ich würde diesen Menschen sagen, die ja sich auch Fragen stellen. Direi loro di guardare alla Germania. La cancelliera Merkel e la CDU sono solidali, ma proprio a causa di questa solidarietà verso gli altri paesi, noi siamo stati criticati in patria. Anche per questo è nato qui un partito euroscettico che vuole espellere alcuni paesi dall'eurozona. Questo partito dice che noi sbagliamo tutto sull'euro, dice che siamo troppo solidali con gli altri paesi. Chiedo quindi a chi ci critica in Europa di considerare le difficoltà in cui si muove Angela Merkel, grazie alle quali però è riuscita a portarsi dietro la maggioranza dei cittadini tedeschi, conclude Pöttering. Dabei hat sie die große Mehrheit der Deutschen hinter sich und das ist entscheidend, aber es gibt auch Kritik. Du siehst mich fragend an. pochi chilometri dalla Konrad Adenauer Stiftung troviamo nella tranquilla Hiroshima Strasse la Friedrich Ebert Stiftung. Quest'ultima è la fondazione di riferimento del Partito Socialdemocratico, la SPD. Sono mondi interessanti quelli delle fondazioni legate agli schieramenti politici tedeschi. A tutti gli effetti fondazioni politiche svolgono però studi, convegni e attività separate dalla politica vera e propria. A Hiroshima Strasse incontriamo Ernst Hillebrand, capo della sezione per l'analisi politica internazionale. A lui chiediamo una visione della prossima politica europea di Angela Merkel, da una posizione però di centro-sinistra. Das glaube ich nicht. Erstens braucht Frau Merkel trotzdem trotz ihrer großen Mehrheit einen Partner. Credo che non cambierà nulla nella politica europea di Angela Merkel. Credo che in primo luogo Frau Merkel utilizzerà la sua grande maggioranza per trattare con il popolo tedesco questa o quella concessione ai paesi europei più in crisi, afferma Hillebrand, che prosegue. La cancelliera ha aspettato queste elezioni per rafforzarsi tra gli elettori. La sua posizione è sempre stata: noi non paghiamo per i debiti accumulati irresponsabilmente dai paesi periferici. Le elezioni ora sono alle spalle, le ha vinte, e quindi c'è la possibilità anche per lei di prendere decisioni pragmatiche che vadano nella direzione della stabilizzazione dei paesi più deboli dell'Eurozona. Più in dettaglio, penso che Angela Merkel sarà più flessibile e pronta a fare concessioni sui debiti delle nazioni periferiche, anche se non arriveremo al varo degli eurobond, ciò significherebbe un vero tradimento delle promesse elettorali. Ci sarà sicuramente maggiore disponibilità a sostenere gli investimenti in infrastrutture e ci sarà dunque più margine di respiro per i paesi che stanno risanando i conti. Ci sarà infine minore pressione per provvedimenti rapidi sul risanamento dei conti, ma non necessariamente meno austerità significherà maggiore crescita, afferma Hillebrand. Weniger Austerität bedeutet ja nicht automatisch mehr Wachstum. Ja, das glaube ich schon. Also an der grundsätzlichen Linie zu sagen. Su un punto Hillebrand è certo, il mantra non cambierà. Riforme strutturali per tutti come le ha fatte la Germania. La Germania è pronta a mostrare solidarietà, ma in cambio chiediamo ai paesi periferici di fare i compiti a casa, come noi abbiamo fatto 10 anni fa. Su queste linee guida non cambierà nulla, ma le condizioni che saranno collegate a queste riforme saranno più rilassate, meno stringenti. An dieser Grundlinie wird sich nichts ändern. Schwer zu beantworten. A Hillebrand chiediamo come cambierà il ruolo della Germania in Europa dopo le elezioni. Sarà un'Europa ancora più tedesca? Difficile dirlo, ci dice, ma il ruolo tedesco può difficilmente divenire ancora più chiave. Poche decisioni vengono prese oggi a Bruxelles senza il consenso tedesco, anche se, come abbiamo visto dal comportamento della BCE, Berlino ha un potere tutto sommato relativo. Le azioni di Francoforte non sempre hanno rispecchiato la posizione dell'esecutivo Merkel. La Germania giocherà un ruolo sempre molto grande, ma nel quadro del sistema europeo. Inoltre credo che Angela Merkel non veda motivi di cambiamento. Il suo successo elettorale è anche un ringraziamento per le sue posizioni europee. Viene vista come una garante di politiche comunitarie che tengano in considerazione gli interessi tedeschi. Difficile deviare da questa linea politica. Penso insomma che ci sarà una flessibilizzazione della posizione tedesca in Europa, ma in modo controllato, anche per evitare che un'eccessiva generosità porti alla crescita di partiti euroscettici come l'AfD, conclude Hillebrand. Ein zu starkes Entgegenkommen in Richtung. Du sagst zu mir, Puppe, lass das Denken rein. Andiamo ora a capire, allontanandoci un po' dalla politica, come l'economia e le imprese considerano i risultati delle elezioni tedesche in ottica europea. A Berlino abbiamo incontrato Michael Uther, direttore dell'Istituto di Economia Tedesca, organismo indipendente finanziato da un centinaio di associazioni di imprese. Non rappresenta formalmente la voce dell'industria, ma le sue valutazioni possono essere considerate un buon termometro dell'aria che si respira negli ambienti economici. Tatsache, dass eine Bundesregierung. Innanzitutto la strategia europea di Angela Merkel resterà la stessa dopo le ultime elezioni. Gli elettori hanno votato per una prosecuzione di questa strategia. Non ci sarà dunque denaro facile per i paesi europei in difficoltà, esordisce Hüther. Secondo punto, tutti i partiti che proponevano più tasse nei loro programmi elettorali hanno perso e questo è importante anche per lo sviluppo economico. Das ist für die wirtschaftliche Entwicklung sicherlich wichtig. Wachstum inszeniert man nicht mit Staatsgeld. Ci sono paesi in Europa che chiedono più politiche per la crescita, chiediamo, e facciamo notare maggiore crescita nei paesi mediterranei può essere positiva anche per il mercato interno e per le esportazioni tedesche. La crescita non si crea con denaro pubblico, ribatte Uther. Lo si è visto nei paesi del sud, anche in Italia. Maggiore indebitamento non porta automaticamente alla crescita. Sarebbe meglio se nei paesi si lavorasse di più al miglioramento della competitività e al risanamento dei bilanci. Lo vediamo in Spagna e in Portogallo. Il risanamento dei conti è la pietra angolare per una maggiore crescita. Il maggior ostacolo per gli investimenti nei paesi in crisi io lo vedo invece nelle banche, che hanno seri problemi ai bilanci. Attraverso l'unione bancaria questo problema dovrebbe essere alleggerito. In ogni caso penso che le elezioni tedesche non porteranno un'altra strategia per l'Europa, conclude Uther. Das Thema zu sein, das ist aber bereits auf der politischen Tagesordnung. Insofern glaube ich nicht, dass aus diesem Bundestagswahlergebnis sich eine andere Strategie für Europa ableitet. A conclusione della nostra inchiesta su quale Europa arriverà dopo le elezioni tedesche, facciamo tappa all'Istituto per la Politica Europea, anonimo edificio in quella che fu un tempo Berlino Ovest lungo la Bundesallee. Qui ci accoglie, nel bel mezzo di una giornata di formazione sulle politiche europee, il direttore Matthias Jopp. Ich glaube an der Politik von Frau Merkel. Credo che effettivamente non cambierà nulla nella politica europea della Germania, dice Jopp. Il corso della politica tedesca in Europa è stato giudicato di successo dagli elettori. Ciò che probabilmente cambierà sarà la retorica sull'Europa a livello di politica interna. Finora Frau Merkel diceva: non so cosa accadrà, anche se non era vero. E ora penso che, dopo l'exploit degli euroscettici, lei adotterà una tattica più offensiva per vendere e motivare a livello interno la sua politica comunitaria. A Bruxelles, invece, la cancelliera continuerà a esercitare una pressione sui paesi dell'Eurozona affinché sistemino le finanze pubbliche, riportino nei parametri il deficit, abbassino il costo del lavoro e riavvino le esportazioni. E poi c'è il tema dell'unione bancaria che, quando si realizzerà, farà in modo che le banche nazionali vengano ricapitalizzate direttamente dal Fondo Salva Stati. Questa è la direzione. Si continuerà così. Non cambierà molto col terzo governo Merkel, sentenzia Jopp. Also das ist erstmal die Richtung, das wird so weitergehen, da wird sich nichts Großes dran ändern. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.